uno di fianco all'altro per un'altra avventura. Angeli del palco caduti in questo mondo, spossati dall'ibiti in fondo alla radura, in cerca di avventure e di grandi amori, l'esperienza come fine ed una storia dura. Una storia dura.